esce dal mattino in questo stato. Ridotte margini da chi lo ha sempre garantito, lavoro assicurato, tributi di arretrato, e intanto vaga per le strade senza apprendistato, come un disoccupato con casa da mantenere. Il suo rimedio di sussidio e il fumo che può farti avere, in quanto qui nessuno assume, nella vita perde il lume, il portafoglio diventa leggero proprio come piume. Un amico che l'aiuta ma spacciando solo droga, in questa vita affoga, quella è la sua unica paga. Con le pezze strette al culo lava anche finestrini, mentre prendono i milioni cretini come Gaidini. Come quei repubblichini della gente se ne sbatte, mentre il cittadino sbatte le sue tasche vuote in mente. Vuole uscire dallo spaccio e dare un calcio al suo passato che l'ha sempre incatenato al niente, allo stupefacente. Chi cerca la sua sfonte e si rivolta perché vuole avere la sua stima prima del suo cachet. Vuole cambiare la rotta anche se la linea è interrotta. Vuole spingere la fonte, essere padrone di sé. C'è chi cerca la sua sfonte e si rivolta perché vuole avere la sua stima prima del suo cachet. Vuole cambiare la rotta anche se la linea è interrotta. Vuole spingere la fonte, essere padrone di sé. Rintanato alla stazione in attesa di quel treno, ora è diventato un uomo ma non mi sembra sereno. Non è quello che voleva e non avendo alternative, attaccato i sogni a un chiodo imbracciando quel fucile. Con uno stato vile adesso scende a compromessi, vuole fare i suoi interessi ma i suoi capi sono ostili. La sua stima non aumenta anche se vanti i suoi gradi, ma non trova altri rimedio tra sparare sui civili. Dalle terre in Medio Oriente ci riesce a guadagnare solo modo qui in Italia per poter un po' campare e per mandare alla famiglia, moglie e figli, un assegno. Adesso sta in una caserma con la quale ha stretto un pegno e porta a segno il suo lavoro. Non si sente un vero uomo per un compromesso amaro, lui si veste da sicario. Sì, di certo c'è un salario ma di sé non è vicario, ora pensa un altro Cristo da coprire col sudario. C'è chi cerca la sua sfonte e si rivolta perché vuole avere la sua stima prima del suo cachet. Vuole cambiare la rotta per